diciamo della musica di qualità. Vai Fabio. Kappa, io degli America ho un disco che è un mio riferimento audio, che è l'Aldi, così come per esempio il mio riferimento audio è una compilation del Supertramp, dei Very Best of Supertramp, che c'è anche in 3-4 versioni diverse, però il master audio della versione più corta, quella che sto dentro CD, è un punto di riferimento, così come un punto di riferimento la compilation dei Police, dei Greatest Hits, dei Police, mi sa. E mio figlio ascolta il rap di Falco, se ve lo ricordate, perché un giorno si è innamorato che me l'ha finita in macchina, ascolta gli Stereophonics, che sono un gruppo un po' particolare, e gli piacciono gli CDC, però gli piacciono troppo i Deep Purple, io non lo so da chi ha preso. Anche a me i Purple piaceva, poi c'erano Sex Pistols, c'erano tanti di gruppi bravi nei miei tempi, poi ascolto anche musica da discoteca, mi piace molto, non disdegno della musica da discoteca, mi è sempre piaciuto. Kappa, io ho passato da DJ gira dischi e musicomane nelle feste, perciò la dance adesso ho dovuto anche io masticare e ho ancora tanti dischi tra l'altro. Non ho più 1002 Roberto, come ce li hai tu. Però qualche anno fa, per un'amica, dovevamo organizzare una festa, il giorno sono uscito, ho preso due piatti così al volo che ho trovato alla GBC, due piatti con col pitch, a trazione a cinghia, e mi sono rifatto l'impiantino molto terrago, però abbastanza efficace, là, per mettere musica latinoamericana, perché loro volevano ascoltare quella, e mettere un po' di dance, poi alla fine mi sono ritrovato anche a mettere roba sana a tempo, capito? Io avevo mio nipote che ce l'aveva un bel impianto, poi ce l'ha venduto per comprarsi la console, quella con i CD, ma fa Napoli, era molto meglio quella che aveva, c'aveva i piatti Technics, c'aveva bellissimi. Ma la console con i CD io me la sono fatta, era una 15 anni fa, ma così, giusto per aggiornarmi, perché mi sentivo troppo vecchio, capito? Venivo individuato nei miei pensieri come io vedevo fino agli 80, fino ai 90, quelli che facevano musica negli anni 70, che giravano con l'elenco. Li ho presi i CDJ, li ho presi, li ho trattati, ci ho giocato, ho imparato un pochino a gestirli, però continuavo a dire no, ma è meglio di finire, ma io sono l'unico scemo al mondo che dice che è meglio di finire. Sono l'unico scemo al mondo che vorrebbe continuare col vinile. Col vinile si fa meglio questo, si fa meglio quell'altro, riesce a giocare in maniera diversa. Poi hai visto cosa è successo? Ora sono tutti col vinile. A chi lo dici? Io di dischi ce ne avrò minimo 3.000 di titoli, forse anche qualcuno in più. Cioè, i miei nipoti che compongono musica, loro fanno delle serate, quando fanno delle cose, sono sempre fuori all'estero loro. Ho detto, è troppo facile fare la musica. Io ho fatto 1.200, ho acquistato, mi sono fatto un regalo a Natale, mi ho preso una console di quelle da DJ col computerino già, col display tutto completa della Phantom. Ti posso dire, è un giocattolo utilizzarla. Cioè, quando la vedi, c'è cacchio così, anche un asino riesce a giocarsi. La cosa è, farlo con 1.200, la stessa cosa. E prima ancora, come hai detto tu, con i Lenco, che erano dei piatti lentissimi in partenza, lo spunto era lento, lo dovevi aiutare col dito e fare eccetera eccetera. Io prima dei 1.200 c'avevo il primo piatto, era sempre la Technics, l'SL303, tra 3 a cinghia, ci metteva un'ora e mezza a girare, poi mi avevano fatto vedere come si faceva la modifica per regolare la velocità, ma faceva più o meno 5%, per cui dovevo aiutarla tu col dito utilizzando uno slider, perché avevo messo lo slider nel tuo. Poi avevo acquistato un altro Technics, il 303, per SLD303 a trazione diretta con regolazione velocità con la rotellina, ma era lentissimo. E poi mi sono preso, vabbè, un TC, ce l'ho ancora quello, trazione diretta, quello è un bel piatto, molto pesante, un po' raro come di piatto. E poi avevo preso l'imitazione del 1.200 a trazione diretta, identico al 1.200, preciso, non dico che sia meglio, però per certe cose c'erano delle cose più carine del 1200, non il braccio è sempre meglio quello del 1200, però tipo se c'era ancora nuovi in scatola, come mi sono capitato il 1200, ho messo da parte, però non credo che me li venda perché me li tengo di scorta, sono belli perché sono nuovi nuovi. Ecco, possono capitare, cioè, se ti va bene trovi la coppia di 1200 per 600-800 euro, che sono tutti da tarare, c'è tutto il lavoro da fare, non sto qui a dirtelo, tu ti puoi immaginare il pitch che magari non è preciso, che lo metti a zero, non ti quadra sull'ottica, o ancora peggio quando il piatto è freddo funziona in un modo e quando è caldo funziona in un altro. Cioè, li ho visto di tutti i colori, a tarati è anche un mezzo pasticcio, non è molto facile. Sono dei piatti che sono capitale, secondo me. Io non ci vedo più, l'ultimo che ho toccato l'ho toccato qualche anno fa a casa di un amico e lui è rimasto fedele al vinile e ha tipo, penso, 20-30 mila dischi, qualcosa del genere. Magari te lo ricordi pure, sabato le mandati a Totix. Dove lavorava questo? Io ricordo che ha fatto tante stagioni a Parsifal, poi ha fatto anche a K2, anche a K2 è andato in costa, in questa smerata ha lavorato a Baia Sardinia, e va bene dell'ambiente, cioè tra Antonello Fada, Zeno, il mio caro vicino amico di casa, vicino di casa amico Arturo, cioè era lì della compagnia, capito? Chi c'era? Sergione, tutta quella compagnia lì, che poi la compagnia che bene o male si è evoluta e continua a far girare i dischi a Sassari. Sì, però diciamo quelli sono un po' così, diciamo, io non li considero ad altissimo livello, tutti quelli che hai nominato tu. Numero uno, qua in Sardegna è cosa? Sandro Murru, quello non so se lo conosci, quello è il numero uno in assoluto. Non c'è gli altri, Zeno Pizzo era troppo professionista, nel senso sempre quei passaggi lì, non aveva fantasia. Quegli altri che hai nominato, così, dai, ce n'era di meglio. E c'è una persona che qua non voglio nominare, che è poco conosciuta rispetto a quelli che hai nominato tu, ma li fa 10-0, che ha fatto delle discoteche, tante discoteche, non come hai nominato tu il K2, sicuramente non c'è andato, mentre Sandro Murru, io ne metto sempre il numero uno, come dici. Sandro è lo Stefano Secchi della Sardegna. No, non ce n'è, a parte che lui sta ancora lavorando, adesso mi aveva interpellato mio cugino, che lui è molto amico, voleva fare una web radio, mi ha detto guarda mettiti pure tu, ho parlato con Sandro Murru, perché lui sa che io sono appassionato di radio, ha avuto una piccolina proprio a livello di quartiere, e come si chiama, lo volevamo fare, vieni un po' tu, dai, non lascia perdere, sono già due persone me l'hanno chiesta, non lasciamo perdere, c'ho altre cose per la testa e c'ho poco libero, tempo libero, però Sandro Murru non ce n'è, a parte la bravura e poi la professionalità, ha lavorato anche a Radio 105, lui non è un scimpanzé, nel senso è una persona di un certo livello, conosciuto anche a livello, ha composto musica, ha cantato musica, eccetera eccetera, adesso magari si è un po' calmato, lavora a Radio Super Sound lui, però ha lavorato tantissime radio, Radio Sintoni eccetera eccetera, Radio Lina, è conosciuto in Sardegna da tutte le parti, dove va lui porta gente, è stato uno proprio dei pionieri della musica disco, al K2 poi al Biggest faceva le serate solo perché c'era lui, come per dire quando Brustan nel piccolo Zeno diceva c'è Zeno DJ, ecco qua stiamo parlando come dire Michael Jackson con cosa di Bocciudì, il primo che mi viene in mente, il più scaccino dell'Italia, sta parlando di cose, del topo dei DJ. Sì, ma a livello locale poi vengono fuori delle cose insomma molto opinabili, l'esempio è Napoli con la musica napoletana, al tempo delle cassette, quando le trovavi nelle bancarelle le cassette, a Napoli c'era un mercato sommerso di microartisti che erano famosissimi a livello localissimo, però posso dirti che una serata, mi ricordo a Baia Sardinia, mi sembra il Ritual, io dovevo essere special guest, hanno tappezzato per 10 giorni o 20 giorni dappertutto cognome, capito? Quando ho fatto serata mi hanno accolto come se fossi una star. Io, capito? Io. Non sono mica Killer Faber, roba del genere. Killer Faber lo conosci, un altro che si sta facendo i soldi a palate, lo conosci di persona? Killer Faber lo conosco, ci ho anche fatto serate con lui. In Sardegna, quando è venuto a Ossi e quando è venuto anche a Sassari, io saltavo dalla console e gli facevo le luci, in verità. Capita. Guarda, c'è un episodio di Killer Faber che ha tenuto un locale davanti ai miei occhi, ballando per 3 minuti di orologio con un dito. Allora, quel ragazzino, io lo conosco da quando era ragazzino, diciamo si è perfezionato a livello europeo, diciamo che è abbastanza conosciuto, Fabio De Jesus si chiama, se vuoi ti posso dire anche il coso, conosco anche il padre, vabbè il padre è morto, però non era nessuno, lui è riuscito a entrare nei punti giusti al momento giusto, è riuscito a farsi un nome, ma io ti faccio nomi di DJ, a livello regionale il numero uno è coso, Sandro Muro che è conosciuto anche a livello nazionale, ma ce ne sono di DJ che magari li fanno 10-0 a Killer, però non hanno avuto il successo che ha avuto lui. Sì, K. Uno di questi per esempio è Salvatore lo conosco di persona, l'ho più vissuto, lui fisso con l'underground, ha sempre tenuto alta la bandiera underground, anche se si è spinto anche su acid particolari, su remix fatti da persone strambe, tipo cioè il fonico di Madonna, un periodo che ha fatto lui di pugno suo tutta una serie di remix di un sacco di artisti, e c'è un tipo particolare, lui era appassionato. E ti posso garantire che Totix, cose che senti per radio o magari, che so, mix professionali di compilation eccetera, ma non le vede neanche, manco una fornicchina a confronto, capito? Tutto lo stile, il tre pezzi contemporaneamente e tu senti solo una canzone, senti il reprise, se ne senti gli effetti sotto, perché lui si è messo lì, si è studiato il pezzo, sarà studiato, quelle tre canzoni insieme ci possono stare, però in questa maniera qui, capito, fare lo stesso passaggio, farlo 50 volte, perché lui deve sentire quella cosa che c'è in testa, quel progetto che c'è in testa lo deve portare avanti. Certo che Antonello Fatta ha fatto ballare un sacco di ragazzini, eccetera, questi problemi non si li ha messi, Robert. Guarda, io ho visto dal vivo, non so se te lo ricordi, il tuo ago, Agostino Presta, se l'hai mai sentito nominare. Ma sì, l'ho sentito. Allora, quello ha fatto un sacco di canzoni, anche famose della discoteca, e produceva e faceva, tu lo vedevi mixando, questo l'avevo visto al Biblos, dal vero, sacco spaventoso. Di Obbia, visto che sei di Obbia, conosci De Gortes. Scappa. Anche quello nel suo coso di circondario è molto apprezzato. Sì, sì, è molto apprezzato. E poi c'è anche quell'altro, come si chiama? Gianni si chiama di nome. Ui. Non mi viene, però sono in due. No, De Gortes è Gianni, che non mi viene. Molto bravo, molto preparato, nel senso anche culturalmente musicale, cultura musicale molto preparata, perché è inutile che tu mixi la musica che piace a te, ci vuole anche un po' di cultura musicale. Di questi nuove tendenze a livello nazionale, quello che è stato innovativo, non so se l'hai visto, DJ Osso, lo conosci? Sì, quello lì è stato M2O, vabbè è stato anche da altre parti, è stato il primo con questi cacchio di console a fare mettere musica che non c'entra niente, per dire da Celentano ci metteva i Boni M, per dire sopra, è stato il primo diciamo che l'ha fatto, diciamo che si è fatto ascoltare, e poi tra il fatto che è riuscito ad entrare anche la Rai, gli danno uno spazio di qualche minuto un paio di volte alla settimana, ed è stato per me è quello più innovativo di questi ultimi di qua. Poi se parliamo di gente fuori di testa, cacchio, vedo delle gare a livello mondiale e cosa vanno a fare, dico, non è possibile, con i registratori a bobina e lavorano con il nastro, con le dita sul magnetico, cose da paura, con questi piccoli registratori a bobina anziché usare i dischi usano i nastri, quello che tu fai col 1002 loro lo fanno con i nastri, con dei vecchi registratori, con le bobine piccole da 16, neanche quelle da 26 piccoli. Ho visto delle cose della fantascienza, però c'è gente come quelli che fanno i giochini al circo col pallone, con le cose, e qua ci sono quelli fuori testa che fanno solo quello lì, però a me piace l'innovazione, vedere le cose nuove. Questo DJ Osso, ti posso dire, è stato uno dei più di questi ultimi, quello che mi ha impressionato più di tutti. Ce n'è uno, non facciamo il nome dove lavora, però non so se conosci Stefano Mura, lo conosci? Negativo. Symphony. Symphony, sì, ma che se non ascolto tanto. Allora, Stefano è un grandissimo DJ, ma bravo, bravo, ci conosciamo personalmente, a me ha fatto delle serate, lui l'ho chiamato qualche volta quando facevo delle feste e cose del genere, posso dire, è veramente bravo, ha coperto tante persone molto più conosciute di lui e si metteva lui a sostituirli e alla fine cacchio la faceva lui la serata in locali molto famosi, non dico particolari perché non mi piace. C'era questa persona che lavora in una radio, adesso è un po' che non lo sento, che si ascoltava tantissimo, vicino a dove stai tu tra parentesi, così non diciamo troppi particolari, impressionante, tu lo senti mixare, dice cacchio questo con tre dischi contemporaneamente sovrapposizione, diceva cacchio fa, questo è un mostro, l'ha trovato, l'ha dato da Symphony, gli ha detto cavolo guarda che sei veramente, detto da uno bravo, e lo sei veramente bravo, non mi aspettavo, fammi vedere il tuo stile, date 1200, ma io non li so usare, come non so usare, ecco cosa li fa, no, con la console, con la paglia, ho detto vabbè lasciamo perdere, allora c'era, lui si è messo a mixare col telefonino in mano che si riceveva, si registrava, lo vedi usando la cosa un mostro, Stefano, per dirti a che livello, e quello di cacchio sembrava che stesse mixando con tre piatti, con 3200 ed erano con le console. Sì. Un sacco di pasticci e contrapasticci. DJ Osso, un periodo l'ho ascoltato sabato mattina su M2O, mi ricordo, questi mix strani, ci mettiamo in casa dei mezzo, dedotto, e anche tenendo il tempo, cioè, fuori di gatto, ma quello più strano che ho visto, sai cosa ha fatto? Ha preso dei bicchieri, li ha messi su 1200, ha girato, si è fatto la testa che poteva girare, tutto sicuramente il Fermino, della testina, praticamente lui ascoltava, faceva girare il disco alzato dal piatto e il braccio sotto, l'avevi visto? No, quello non l'ho visto, ma ne ho visto un altro allucinante, sono rimasto a bocca aperta, presso non trova una batteria, è riuscito a regolare la velocità giusta e ci ha messo il disco attaccato, l'ha bloccato ha messo una punta di trapano di misura, l'ha bloccato, l'ha fatto in modo che non saltasse, poi ha preso un cono, una bottiglia di plastica, questo qua, e ha preso un chiodo, l'ha messo, ha fatto una specie di trombetta, diciamo un imbuto con questa roba qua, e la teneva in mano, faceva girare col trappano il disco e prendeva questo cono fatto con una bottiglia di plastica con una punta di, come si chiama, con un chiodo, e si sentiva la musica, una cosa mai vista. Questo intanto lo facciamo già in macchina. Io sono, a me mi piace la musica che si senta bene. Dai Gianni, ti metto due bottiglie da Pappanna e due tipi di lavoratore. Vai tranquillo, stereo, stereo hi-fi. Comunque ho risolto il problema dello spinotto, ne ho comprato l'altro, ho tutta la vittina, l'ho messa lì. Furbo, l'hai rubata un altro però. No, l'ho rubata, l'ho comprato. Ciao signori, io vi lascio adesso, dai. Sì, no. Gesù già, che strano il mondo, vero? Aspetta, scusate, cosa ti ho parlato sopra Fabio. Allora vi lascio, dai, tardi, domani si trabacca. Saluto a Fabio, sempre un piacere ascoltarti, soprattutto non sono conversazioni così interessanti, che mi do tutto me stesso, almeno ci provo. Ciao Gianni, anche a te, piacere ascoltarti. Giovanni, sei ancora all'ascolto, e tutti gli eventuali amici che penso ce ne siano molti in ascolto, saluto tutti. Cuoretti definitivo a parte mia, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao, ci sentiamo. Avanti Fabio. Cappa, ciao Roberto, ci sentiamo e ci vedremo anche sicuramente se tra i cammini luna. Vediamoci ancora Giovanni Bracco. Giovanni. Sì, 10 solo e adesso spento 144. Discorsi molto interessanti. A proposito, Fas, io ho, mi ricordo se sono una trentina, 40 dischi, 45 giri, musica americana mi sembra che sia. Se vuoi te li regalo, se ti interessano, e se no ne do qualche altro. Caspita, Giovanni, questo è proprio un bel regalo, eh. In vinile, guarda, di qualsiasi tipo io lo adoro, capito? Ma molto volentieri. Grazie, grazie mille. Va bene, scusa un attimo. Allora, telefono, ci vediamo e te li do, dai. Intanto ce l'avevo quando sei venuto, ce l'avevo in garage, mannaggia, non ci ho pensato, magari aspetta domani mattina, no, ma domani diciamo verso le 11 o mezzogiorno, se vuoi fare una scappata te li do. Capo Giovanni, ci sentiamo domani, è che piacerebbe fare una cosa tipo che ci prendiamo un caffè, capito? Una cosa così. Mi manca un po' la possibilità di avvicinarmi con un amico a un bancone, due chiacchiere, ma ci riusciamo se vuoi. Sì, vabbè, qua vicino c'è il bar, quello che diciamo vicino a Piazza Le Segne, dove c'è quel negozio cinese, diciamo, lì possiamo andare anche là. Comunque l'altro amico che ha ancora in frequenza, chi è? E prova a indovinare, io mi hai sentito tante volte, secondo me non mi riconosci. La tua voce non mi è nuova, però mi sentico sempre il nome, mannaggia, doppio whisky sei, no, doppio whisky no, oh, aspetta un attimo, doppio kumel, no, nemmeno quello. Doppio rum. Ah, ecco, scusa, doppio rum, ti ho sentito parecchie volte, ti ho salutato varie volte, il nome non mi ricordo però. Gianni. Diciamo in CB è meglio anche dire il nome, perché siamo diciamo in HR tutto un altro paio di maniche, ma qui come dice Roberto è meglio il nome, a volte magari se ci sono due o tre Giovanni allora io dico diciamo il nominativo che ho usato sempre, cioè Bracco, però è sempre meglio, insomma c'è più intimità quando si pronuncia il nome di una persona, dai. Ti rilancio il micro. E vabbè, ma c'era una regola che si doveva entrare col nominativo, adesso poi svanito tutto. Boh, vabbè. Comunque già ne do più rum da questa parte qua. Avanti Fabio. Capa Gianni. Gianni doppio gin non andava bene. No, doppio rum. Da 40 anni a questa parte. Ascolta, doppia tequila no. No. Sempre quello io ho avuto di nominativo, non ho mai cambiato. Ma perché? È venuto così? Avevo un compagno di scuola che giocava a pallone e aveva le gambe storte e lo chiamava doppio rum e da lì mi è venuto il nominativo. E poi c'era doppio rum capitabicchi, non so se l'hai mai detto. Ah, capito. Doppio rum, non basta il rum, anche doppio. Lo passeggia, come dicono ai miei parti. Che poi io non bevo nemmeno. Ah, addirittura, che pure assegno magari. Sì. Vabbè, ogni tanto una birra, una cosa, ma proprio di raro, che quando mangio la pizza. Capo come me. Pensa che io per festeggiare, per non dire che sono assegno, cioè non voglio essere assegno, chissà perché. Hai visto che l'Heineken ha fatto quelle bottigliette di birra piccole che non riempiono neanche il bicchiere? Sì. Quella è la mia porzione, quella è la mia quantità giusta. Io nel camper, nel freezer, ho sempre il freezerino, ho sempre delle bottigliette là, e allora il giorno che devo festeggiare, perché magari sono in giro, perché magari che so, durante il Gran Premio di Formula 1, no? Queste cose così, ciò vuol dire due, tre volte al mese, al massimo, nei periodi belli, e allora bevo quella birretta e tutta la mia dose alcolica l'ho fatta, figurati. E' meglio che sia così, dai, bere troppo fa male. Caffa, e tu Giova, cos'è? Doppia qualvite, no? Non andava bene come nominativo. No, a dire la verità, a me piacciono anche i liquori, ma naturalmente ne bevo pochissimo, diciamo poco magari. E quando c'ho mal di gola, per esempio, o roba del genere, allora preferisco magari bere qualche goccia di liquore, diciamo, forte, ma anche di ferro, diciamo, no, ma non ne bevo molto, raramente, sia ben chiaro. Mentre a me piace molto il vino è la bevanda più sana che esiste, per intenderci, questo, se non è curato. La birra invece in caso strano mi fa male, mi piace bere magari in estate, però ogni volta che la bevo, come diciamo noi, si intruscia, si gonfia, da poche parole. Non sono un bevitore, io, ben chiaro, questo poco mai sicuro, però uno, due bicchieri di vino dopo pranzo, diciamo, le preferisco la birra, perché ripeto, il vino è la bevanda più sana che esista, perché fa bene pure, se non esagini naturalmente. Giova, esiste la birra non filtrata, quella è meno gasata, prova quella lì. Non ho capito, no. Esiste la birra non filtrata, prova quella che non è gasata. Lo so, no. Vabbè, ma dove la vendono? In tutti i negozi. C'è quella della Ichnusa, c'è quella Moretti, ce ne sono tanti tipi. Oh, yeah. Io vabbè, la proverò quando capita. Ok, riprendi qua. Tu chiedi non filtrata. Cazzata. Campagnare se ne ha accorto mezzo ritrovato l'altro giorno che eravamo fitte birra, non se ne è neanche accorto. Se l'avessi fatto io mi sarei accorto. Io me ne bevo un litro, mi va zinuta. Mangiando la pizza un litro me lo bevo. Gianni. Ah, è Antonino? Vabbè, Antonino. Andatosi da Alice di Tintin. Da chi? Da Alice. No, ma io l'ho sempre detto, comunque buonasera a tutti. A me mi piace una stazione fissa, fare un bel, diciamo, riempire il mio mobiletto che ho fatto. A me veicolare piccolini non mi piace. Nemmeno a me, anch'io sono come te, dai. Però ho comprato il 3009 perché esce bene. Ma ti pare? Ma che 500 euro sono 500 euro, anche se ho soldi, non ne butto per un apparato piccolino. Se io trovo, vedi, un altro Galaxy me la prendo. Guarda che ne stanno prendendo uno turbo, sul sempre sui forum. Sempre su? Sui forum dei CD. Ne stanno prendendo uno turbo, quello che esce con 100 watt, con MC60. Stazione fissa? Ehi, un Galaxy Turbo, quello che esce con 100 watt. Aspetta, dove devo andare? Sono sempre su Google? No, devi andare su Facebook, e su Facebook non so se tu sei iscritto a questi siti dei CB, dei due forum dei CB. Sì, che sono iscritto, parecchi. Sfogliali e guarda, perché non mi ricordo il quale, se dovrei andare a cercarlo per farlo vedere. C'ha l'MC60 ed è il Galaxy 555, che sarebbe come il Galaxy Turbo, là, uguale. Ah, l'ho già visto un 555, penso che non è già 555. Perché quello lì è dell'ARAN, è uguale identico al Galaxy Turbo, esce con 100 watt, c'ha le memorie, tutto quanto uguale, solo che è marchiato ARAN 555. Prezzo, te lo ricordi? Prezzo, aspetta quanto lo sta pagando, mi pare 400 euro. No, troppo. E tu vuoi che sarà roba vera, quindi quello che c'è un apparecchio che esce forte al vivo. Sì, vabbè. Io comunque quel prezzo, ancora non l'ho capito, quel prezzo là, anche di meno, prendo 140, capito? Ma ho un Kenwood, non so mica un veicolare piccolino, aspetta che ammasso qui, ecco. A me mi piace la cosa mastodontica. No, anche a me mi piace così, mi piacciono le stazioni di pace, io ti do ragione. La mia è bellina la stazione, non dico che sia enorme, ma è fatta bene. Ma io lo stesso, guarda, io poco tempo ho parecchia roba già, e non mi va bene così, come estetica a me mi va bene, posso solo accendere e basta, no, non me ne frega, tanto si muovono solo su 10, basta un po' lato. Ehi, ma infatti, vabbè, ma se tu c'hai delle esigenze di coprire tutti i ripiani del mobile, ti puoi comprare le stazioni basse, ce ne sono diverse qui lì. Certo. Io ho fatto muovere proprio per riempire di questa cosa qua. C'ho qualche buco libero, quindi voglio riempirla e basta. A me mi dispiace che Antonello si è creduto qualcosa che non era così, perché io ho detto che era tondo. Ero curioso di vederla e basta, chiusa qua. Fortunatamente mi l'ho fatto, poi ieri ha capito cosa ha capito, non me lo voleva far vedere, alla fine è stato su internet, l'ho visto, no, mi piace. No, non almeno a me piace. È troppo ristretto, manopola grossa, apparecchio piccolo, apparato piccolo. E vabbè, dipende dai gusti tu lì. È bello il Galaxy, per me è stata sempre la chicca più pirita. Non... ce ne sono tanti altri, ma a me il Galaxy mi piace un bel. Chi c'era qua in giorno ruota già? C'è Fabio, non so se tu lo ascolti, e Giovanni. Giovanni Bracco. Già l'ascolto Fabio. Ciao Fabio, ciao Bracco. Ciao Tony, verità, se mi ascolti è grazie a te, non grazie a me. Grazie a me. Dai che io sono fuori sassa, regà. Sono in un buchino. Grazie di ascoltarmi, che io non sto uscendo praticamente. Tra un po' per uscire meglio prendo il portatile e me ne vado sul tetto. E vedrai. Dai, metti la tenda, dai. Così ti sentiamo meglio. Vedi gente, prima ha detto che c'è il buco libero, poi adesso ho detto l'altro che sei in un buchino. Comunque dai, metti l'antenna grande così ti sentiamo meglio. Kappa, anche perché se non mi sentite davvero apro la finestra e metto a urlare, magari ci arrivo meglio. Già lo sai, fa tutto, piazza per l'antenna come si deve, se vuoi un consiglio. Kappa è il progetto. È il progetto che fino alla chiusura del lockdown non si poteva fare niente, poi adesso, finito il lockdown, c'è tutto da fare, è tutto insieme, capito? Per esempio, una piccola cassatina, nella casa di Olbia c'è da rifare il tetto e probabilmente fine settimana vado, ecco, sul vicino ci facciamo il tetto. Cosettine così, piccole cose arretrate. Ma tu dove abiti, a Olbia o a Sassari? Io sto abitando a Sassari. Anche se negli ultimi 20 anni sono rimasto, ho vissuto a Olbia. Sono, quelli di Sassari mi chiamano l'Olbiese, quelli di Olbia mi chiamano il Sassarese e io non mi comprendo nulla già, no? Io sono quello che ci capisce di bene, vedo come sono. Tu devi sentire dentro quello che sì, lo spirito è di Sassari, non è dentro di Olbia. Oh, sicuramente, però anche rispetto e affezione per Olbia, anche perché anche se gli olbini sono persone particolari, sognati il concetto di amicizia che hai tu qui a Sassari per le persone che hai conosciuto, anche se magari ti saranno capitate per strada una valanga di stronzi, ma il concetto che si ha a Sassari l'amicizia ad Olbia non lo si ha, perché probabilmente è un concetto più vicino all'opportunismo piuttosto che all'affezione, capito? Qualcosa del genere. Però comunque sono andato a Olbia non per fare l'immigrato e costruirmi la casa a Sassari, per intenderci. Sono andato a Olbia a vivere a Olbia, quando ho deciso di rimanere a Olbia, per tutta una serie di motivi relativi alla mia vita, alla famiglia, eccetera, ho pensato, se rimango qua, io comunque sono fatto così, sono onesto e mi vivo la città così come si vive la città, capito? Perciò riprendiamo la storia, capiamo le cose, cerchiamo di capire come è venuta fuori in questo modo, per quale motivo, quali sono le tradizioni, le abitudini, le usanze, tutto così. Diciamo che mi sono integrato come un olbiese, sono un olbiese tutti gli effetti, anche se poi alla fine la base è quella di Sassari. Magari anche l'animo. No, siete passati. Ho detto magari anche l'animo è di un sassarese. Beh, penso di sì, penso di sì. E d'altronde già, ma chi siamo gli Sassari? E siamo i più forti, dai fare. E allora, siamo i più forti, avanti Tony. Ecco. Io mi sto spogliando per trovare quello che hai detto poco fa. Sto guardando. Ti stai spogliando? Sto spogliando le pagine, mercatino. Ah, prova a controllare. C'è, guarda che c'ha l'MC60. E lo sto vedendo. È un bel bello quell'apparecchio. Quello c'ha le memorie, i tasti con le memorie. Insomma, esce con 100 watt, 200 watt da alterare. Insomma, è una bomba. Non è bisogno né di lineare né di nulla. Vediamo se lo trovo, dai, piano piano. Comunque, guarda, come è presto, non è male 400 con il microfono, eh. sul microfono costa 170 euro. E dove hai in che città già? Beh, non te lo so dire, aspetta che controllo io, se non troppo ti faccio sapere. Ok. Questo è Galaxy, è salito a proposito. Io mi ricordo che il mio, la mia stazione l'avevo venduta, mi sembra, per 250.000 lire, però condizioni impeccabili, cioè scatola, microfono originale, i cavetti, manuale, neanche un graffio. Nella scatola lo rimettendo il suo accello, ho fan capito, proprio, cioè condizioni impeccabili come nuova, perché purtroppo prendevo colpi da quello a fianco e non riuscivo a usarla. Ma adesso ho visto, anche perché la stavo cercando una stazione, tra l'altro me la sono anche presa, una Wagner, ho visto che il Galaxy è salito tipo 400-500, ne ho visto uno che lo stavano per 700 euro, dice mai usata, sono d'accordo con te, però 700 euro, cazzo. L'ho visto anche uno, 800 e passello stava là. Eia, tutte cruce era questo. Dice NOS, che sarebbero quelle cose che sono arrivate in magazzino non utilizzate, no? Perciò un new old, no? Nuovo mi è toccato, ma vecchio. E ne voleva più 700 euro questo. Sono troppo gli occhiali. Non è che ce l'ha in testa come faccio io, no? Sì, ce l'avevo in testa. Allora ragazzi, io mi lascio e vado con Retin. Un abbraccio Giovanni, vi saluto tutti, diciamo Gianni, Fabio e Tonino se non mi sbaglio. Ok, vi saluto, ciao ciao. Ciao Giovanni, ci sentiamo domani mattina, magari vi faremo anche per il ciucato insieme, dai. Mi farebbe molto molto molto piacere, infatti ti seguo anch'io in correttia. Le tocca salutare Gianni Tonino, che ci sentiamo sicuramente domani. Avanti doppio. Aspetta, parla con Tonino che sta cercando quella roba. Ciao Gianni, buonetti, ci sentiamo. L'ho già trovato. Trovatela. No, io non sto sempre sfogliando. Qua sono arrivate le antenne. Abbiamo a che fare con un'azienda molto seria, la Sirio. In tutto questo periodo di pandemia, parliamo da marzo ad oggi, non c'è. Tony non lo vedo ancora, aspetta, bimbi, lui forse è questo, no, quello è un Galaxy, sto cercando. Tranquillo, non ne ho fretta già, se non trovi pazienza cerco io più tardi domani, non c'è problema, tanto sono per forza maggiore a casa fino al 18 luglio, quindi. Perché per forza maggiore? Io sono cardiopatico, devo fare la quarantena per 2 mesi a casa, come l'ha fatto l'altro mio collega. Capito, ho capito, vabbè, rilassati. Praticamente dice, decidi, ti mettiamo in cassa integrazione, ma prendi la metà dello stipendio. Fumenti? No, ti conviene, tu dice, tieni, rimani in malattia che hai il 100%. Ok, rimango in malattia, tanto. Se devo uscire, o esco la mattina presto, oppure dopo questo giorno, gli orari già adesso ho capito. Oppure dopo le 7 la sera. E occhio con la malattia, che ci può lasciare le penne se fai più di 6 mesi. No, basta che non superi 6 mesi, quindi sono appena 2 mesi io in tutto. Va bene allora, stiamo andando tutti due uscire. No, a me non mi frega, mi manca poco nella pensione, capito? Pure a me. E all'altra non lo so, già, cio. C'è tutto casino, c'è qua su Google, esco da questa pagina, dai ragazzi, mi sa che vi saluto davvero, dai, aspetta che l'ho trovato, tu aspetta, salutando, sì, buon divertimento, ci sentiamo domani, ciao ciao Fabio, ci sentiamo, buonanotte, ci ha fatto piacere ascoltarti, Tony, ho trovato la parità. Ok, ciao Fabio, ci sentiamo, mettiti davanti al nonno, così ci sentiamo meglio. Ciao, buonanotte. Dimmi, dove l'hai trovato? Allora, devi scrivere CB Galaxy Saturn e Pluto. Saturn, Pluto e Cluny. Ma su Facebook? Tu lo cerchi con Google, no? cerchi CB, Galaxy, Saturn e Pluto e Cluny. Aspetta, CB, Saturn, Pluto e Galaxy, Saturn. Ascolta a me, Galaxy, Saturn devi scrivere. L'ho scritto, poi Pluto mi hai detto. Poi scrivi E, Pluto e Cluny. Aspetta, E, Pluto e Cluny. Eccolo qua. C'ha uno stemma che è giallino, c'ha un po' di verde e un po' di arancione in alto, giusto? È uno schema. Sì. Ciclo dentro, cerco lo schema, non l'ha ingrandito infatti. Quindi, beh, non mi fa scendere molto giù, Dove devo andare? E all'inizio, tu come entri, c'è subito il gas. Io sono entrato, iscriviti al gruppo, come dice. Iscriviti. Adesso mi scrivo. Mi dà le pagine, mercatino, auto, struzzi, 27 MHz, 27 MHz, e questo esce forse. Forse entrando qua, no, tu lo vuoi a vedere? Sì, ecco le uno qua. Questa così, Galaxy Saturn malato. Ma è un Galaxy Saturn malato. No, questo qui è il 550, 560 che sia, 560. È quello praticamente che esce con 100 watt, c'è un alimentatore switching dentro contenuto, va da 26 a 32 MHz, microfono Kenwood MC60, tutto perfettamente funzionante, là è appena stato rinnovato dell'illuminazione, sostituito il vecchio trasformatore interno con un moderno switching, incluso anche il microfono originale e adattatore per 4 voli, con schema elettrico e service. Sì, ma non so perché non me lo fa vedere a me, perché sono in attesa dell'accettazione dell'iscrizione. Hai i tasti tutti quanti azzurri, le luci bianche nelle smite, per quelle bianche, bianco ghiaccio, al frequenzimetro centrale, insomma è un Galaxy praticamente, solo che è chiamato Alan. A me piace lo smitter mio che è illuminato, bianco al centro e gli angoli e i fianchi in alto e azzurrino, che bello, eh? Ma poi le luci si possono sempre cambiare volendo. Questo di smitter ce li ha originali, ce li ha bianchi e ha tutta la tastiera azzurra. No, questo è originale di smitter, sono bianchi, certo. Ma il bordo intorno è azzurrino, bello. Beh, sì, c'è chi se li fa azzurri, chi se li fa viola. Vabbè, comunque se mi sono iscritto, aspettiamo domani, arrivo al rientro nella pagina e me lo farà vedere. Ok, dai. Ciao Tony, ci sentiamo, dai, buonanotte, io sto chiudendo, è già tardi. Se non disturbo, non per me, non perché disturbo gli altri. Ok, ma io adesso poi sono un po' isolato qua, dai lati vicini, quindi non disturbo. Ok, dai, ci sentiamo domani. Ciao, stai bene, 144. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao.